Ti ho sempre soltanto veduta, senza parlarti mai. Nei tuoi istanti più belli, ma ho l'anima ormai tanto tesa, schiantata dalla tua figura che non trova più pace, più pace. Alzo un brivido atroce e non posso parlarti e nemmeno avvicinarmi. Questo no. Che cadrebbero tutti i miei sogni se io non avessi più le tue mani e il tuo viso. Ricadrebbero sulla tua pelle come il mare che ti bagna e il vento che ti prende per portarti via da me, per andare via lontano senza me. E cadrebbero tutti i ricordi colorati dalla vita, ma la vita mia sei tu e ho nell'anima di questa notte la certezza che domani io non ti sfiorerò mai.